America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. President, we are told at this hour has removed Steve Bannon, of course his chief strategist, from the Principals Committee of the National Security Council. It's incredibly interesting, Kate, because avete sentito il newscast, Steve Bannon è stato rimosso dal Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Ecco, questa è una notizia che ha colto un po' di sorpresa, perché Steve Bannon è legato col doppio filo a Donald Trump. Lo ricorderete, era riuscito a farsi nominare nel Consiglio per la Sicurezza Nazionale e Bannon, come dire, l'anima nera della Casa Bianca, è il consigliere più intimo, più vicino a Donald Trump, e eppure ha dovuto rinunciare a questa posizione. Perché? Beh, perché c'è in corso una battaglia, c'è una battaglia per isolare Bannon, una battaglia che è condotta da un gruppetto molto solido che include Jim Mattis, segretario per la difesa, Rex Tillerson, il segretario di Stato, John Kelly, responsabile per la sicurezza interna, e naturalmente H.R. McMaster, che è il capo per la sicurezza nazionale, un altro generale, un generale di carriera, il quale con Bannon certamente non andava d'accordo. Questa è una svolta importante perché? Perché rafforza indirettamente questo gruppo di persone considerate con, diciamo, la testa sulle spalle, non uno pseudo rivoluzionario come appunto Steve Bannon. Ecco, sono proprio le questioni di sicurezza nazionale, tra l'altro, che ieri hanno dominato il dibattito politico. When you kill innocent children, innocent babies, babies, little babies, with a chemical gas that crosses many, many lines, beyond a red line, many, many lines. Ecco, avete sentito Trump durante questa conferenza stampa, quando con il gas vengono uccisi bambini e neonati, per me sono state superate diverse linee, siamo ben oltre la linea rossa, dice Trump. Il mio atteggiamento nei confronti di Assad è cambiato molto in queste ultime settimane, perché quello che è successo è inaccettabile. Ecco, Trump in un primo momento sembrava non volersi occupare della Siria. La Siria per lui era un problema secondario, riteneva, come dire, inutile stare a preoccuparsi di un dittatore che tutto sommato riusciva a mantenere sotto controllo un paese, e secondo lui era stato un errore procedere con l'eliminazione di certi dittatori, per esempio con Gheddafi dalla guida della Libia, semplicemente per degli ideali politici. La guerra all'ISIS contro i terroristi dell'estremismo islamico resta naturalmente la guerra di prima linea favorita per Donald Trump. Però, come dire, all'improvviso la Siria e Assad tornano nel mirino degli Stati Uniti. È una continuità questa che prima non c'era. Ed è stata Nikki Haley, tra l'altro, l'ambasciatore americano alle Nazioni Unite, a dare concretezza agli obiettivi. When the United Nations consistently fails in its duty to act collectively, there are times in the life of states that we are compelled to take our own action. Dice, la comunità internazionale ha responsabilità di agire. Se l'ONU continuerà a non prendere una posizione, saremo costretti ad agire da soli per il bene delle vittime. Nikki Haley ha attaccato anche la Russia, perché la Russia è complice di Assad, e si è domandata quanti bambini dovranno ancora morire prima che la Russia se ne interessi. E ha aggiunto, Assad, la Russia e l'Iran non hanno alcun interesse alla pace. Ecco, a questo Mosca ha già risposto, prima di una riunione di emergenza dell'ONU per discutere una bozza di risoluzione proposta dagli Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, ha affermato Mosca che il testo di quella risoluzione è basato su notizie false ed è inaccettabile. Insomma, io non vedo come Vladimir Putin possa pensare di fare l'interesse del suo paese nel momento in cui si schiera al fianco di un dittatore che usa il gas nervino per uccidere bambini e cittadini della sua stessa popolazione. E qui veniamo a un altro problema in materia di sicurezza nazionale, di politica estera, la Corea del Nord. Sentiamo. That's another responsibility we have, and that's called the country of North Korea. We have a big problem. La Corea del Nord, dice Trump, cos'è successo? Che Pyongyang ha lanciato di nuovo un missile che è caduto nelle acque del Giappone. E che cos'è questa? Una provocazione chiara, diretta, in vista dell'incontro che si terrà oggi tra Donald Trump e Xi Jinping, il leader cinese Xi Jinping, a Mar-a-Lago, a Palm Beach, in Florida. Nordcorea e commercio diventano i due convitati di pietra durante questo vertice e il dialogo, come dire, atteso complicato su entrambi i fronti. Perché? Beh, intanto perché Pechino ha chiarito la sua posizione su Pyongyang, lo ha fatto in un editoriale sul Global Times, che è un giornale del Partito Comunista Cinese, e di fatto si dice che l'escalation della crisi nordcoreana è dovuta al fallimento delle politiche americane che poggiano sulle sanzioni. La linea, dice questo editoriale, deve essere piuttosto quella di aprire una linea di dialogo col regime di Kim Jong-un. Ecco, devo dire, se Xi Jinping arriva al tavolo del negoziato con Donald Trump con una posizione di questo genere sulla Corea del Nord, vedremo volare gli stracci, perché su questo Donald Trump sicuramente non si comporterà come Barack Obama, non è un personaggio che cerca la soluzione, il dialogo, il compromesso, va facilmente allo scontro diretto. The currency manipulation that China does is like a great chess master. They're taking intellectual property, they're taking everything, but unless a guy like Trump is in charge, that plant will be in jeopardy very quickly, and you better be careful. Just ecco, qui Trump parla dell'altro argomento centrale, e cioè quello del commercio, naturalmente, ma qui Donald Trump dovrà emergere dopo i paroloni e l'aggressività nei confronti di Pechino con qualche cosa di concreto. E devo dire, il deterioramento del rapporto c'è, e in qualche modo Trump ha ragione, perché c'è un deficit commerciale fra i due paesi che nel 2016 è arrivato, pensate, a 347 miliardi di dollari a vantaggio della Cina su un interscambio complessivo di 519 miliardi di dollari. Pechino è ormai il primo partner commerciale degli Stati Uniti, gli USA sono il secondo partner della Cina e dunque ha voglia a offrire, come si propone di fare a Xi Jinping, investimenti strutturali negli Stati Uniti. Insomma, sappiamo che Xi Jinping arriverà con un portafoglio di investimenti, ma è una cosa investire anche decine di miliardi di dollari in America, un'altra avere un avanzo annuale pari a 347 miliardi di dollari. Ecco, Trump ha più volte minacciato l'imposizione di dazi del 45% sulle importazioni cinesi, l'accusa che Pechino stia manipolando la sua valuta per favorire le merci sui mercati mondiali. Gli Stati Uniti lamentano anche massicce violazioni del copyright, di furti di segreti industriali, dumping su una gran quantità di settori. Su tutto questo Donald Trump ha ragione, e dunque staremo a vedere come gestirà questa sua politica di America First con l'altra grande potenza economica mondiale, appunto quella cinese. Ci sarebbero mai altri approfondimenti da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su americamitrovato.com, seguitemi su Twitter @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, non posso che dedicarla all'incontro tra i leader delle due superpotenze e al fatto che fra loro ci sia una distanza che sembra incolmabile su posizioni per Corea del Nord e naturalmente commerciali, e dunque di Dave Mason, We Just Disagree. Been away, haven't seen you in a while. How've you been? Have you changed your style and do you think? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.